Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Benvenuti alla quindicesima e ultima puntata dedicata alla lettura del romanzo Ex Tenebris, un capitolo alla volta. Nella scorsa puntata ho brevemente accennato al fatto che l'autopubblicazione è una maniera più che valida per far leggere le proprie opere a un pubblico più vasto rispetto alla propria famiglia e gli amici, purché si rispettino degli standard di qualità che invece spesso latitano negli autoreserve. Oggi, in conclusione dei nostri appuntamenti, voglio parlare della mia esperienza personale, nella speranza che sia di aiuto e di ispirazione anche a qualcuno di voi. La mia vicenda è partita esattamente come quella di tanti, se non di tutti. Per anni ho inviato copie dei miei romanzi a case editrici prima e agenti letterari in un secondo momento, senza mai giungere alla cognata pubblicazione. Le uniche proposte che mi venivano fatte consistevano in pubblicazioni con contributo o con acquisto minimo di copie, che sconsiglio vivamente a tutti. Se un editore è serio e credente, per piccolo o grande che sia, investirà di tasca sua. Tutto il resto è truffa. Vista la mancanza di risultati, avendo già vari romanzi nel cassetto, nel 2011 ho approfittato dello sbarco del self-publishing in Italia e ho autopubblicato vari miei romanzi tra thriller e fantasy. Nel giro di qualche mese, complice probabilmente la mia scelta di distribuire gratuitamente il primo romanzo di entrambe le produzioni letterarie, mi sono trovato con migliaia di copie vendute e una proposta da parte di un grandissimo editore, Newton Compton, di ripubblicare con loro i miei thriller. Perché, vi domanderete voi, la nostra collaborazione si è esaurita dopo 3 volumi e non ho mai pubblicato la mia produzione fantasy con un editore, fosse Newton o altri? Perché, nonostante avessi raggiunto il sogno di ogni autore, mi sono accorto che il mondo editoriale è molto diverso da come me lo aspettavo. Ho capito che un grande editore non necessariamente fa grandi investimenti e comunque non li fa su tutti i suoi autori. In più mi sono reso conto che i libri dell'editoria hanno una vita molto breve, settimane, al massimo qualche mese. Nella mia esperienza di autopubblicato, invece, io avevo capito che si può allungare la vita di un libro per anni, continuando a pubblicizzarlo e venderlo, ma solo se si è veramente interessati a farlo, e questo accade solo se si è l'autore. Dunque, carpito qualche segreto del mestiere, compreso che né in un modo né nell'altro scrivere sarebbe stato mai il mio lavoro principale, ma sarebbe rimasto un hobby, ho optato per curare da solo i miei interessi, pur comprendendo i limiti che mi stavo imponendo da solo. Va bene, siamo al congedo e ai saluti, prima di passare alla lettura della quindicesima e ultima puntata del romanzo. Ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito sin qui e Davide e Giorgio per l'ospitalità qui su Radio Big World. Ciao! Capitolo 15. Il gruppo marciò verso nord-est per 4 giorni. Le alture neglette cedettero lentamente il passo a una pianura arida e fredda. Il vento li sferzò per tutto il tempo, quasi a voler impedire loro di avanzare. Il cielo era cupo e basso, una luce appena sufficiente a vedere il terreno davanti a loro. Di Nero si limitava aggrappato al bastone con il suo passo malfermo, ma risoluto. Il cerchio di pietra apparve di fronte a loro come se fosse emerso all'improvviso dalla terra. Era formato da 12 gigantesche colonne di rocce, ognuna talmente larga che 3 uomini avrebbero faticato ad abbracciarla. Sembrava abbandonato da secoli e non dava affatto l'impressione di essere un luogo di potere. Linerus fece loro segno di fermarsi appena al di fuori del perimetro e, claudicando, si avvicinò a una delle enormi pietre. Scrutò con attenzione la superficie e le sfiorò con il palmo della mano. Quando vi scorse un antico simbolo a forma di spirale inciso sopra, lo accarezzò e tentò di rimuovere con delicatezza la polvere che si era incrostata nei secoli. Ripeté l'operazione per ogni singola colonna. Gli occhi dei suoi 4 compagni di viaggio lo seguivano attenti. Non avevano detto una parola da quando erano arrivati. E ognuno di loro sembrava perso in pensieri che non aveva intenzione di condividere con gli altri. Ma i movimenti lenti di Linerus catalizzavano la loro attenzione, come era inevitabile. Una volta completata la sua ispezione, il vecchio si diresse di nuovo verso di loro. «Il cerchio è retto», disse, concedendosi un lieve sorriso, forse il primo da quando era stato liberato. «I simboli tracciati sulle pietre hanno saputo tenere all'esterno il potere oscuro. Cosa facciamo adesso?» chiese Arla. Per tutta risposta, Linerus si avvicinò a Diana e le sussurrò qualcosa nell'orecchio. La ragazza impallidì, ma dopo qualche istante annuì risoluta. Il vecchio la prese per mano e assieme si diressero verso l'interno del cerchio. Tom colse la sua paura quando i loro sguardi si incrociarono. Nei recessi della sua mente si fece strada un pensiero inquietante. Comunque andasse, quella era l'ultima volta che vedeva Diana così come l'aveva conosciuta. Diana sentiva incombere su di lei le grandi colonne che spuntavano dalla terra come enormi zanne pronte a fagocitarla. Quando superò la linea ideale che delimitava la zona interna del cerchio, sentì una resistenza, come se qualcosa si fosse accorto del potere oscuro che albergava dentro di lei e si opponesse al suo ingresso. Rimarus si accorse che si era fermata e ne comprese il motivo, ma non fece nulla. La ragazza fu sorpresa, si attendeva che il vecchio mago la aiutasse o la spronasse, ma lui si limitò a scrutarla. Diana si costrinse ad avanzare un passo dopo l'altro e le parve quasi di sentire il rumore di un tessuto che si lacerava quando mise infine in piedi all'interno. Si guardò attorno. C'era solo una grande pietra di forma quadrata al centro esatto del cerchio. Il vento, all'esterno così fastidioso, non li raggiungeva e il cielo non incombeva cupo e basso. Si girò, ma non riuscì a scorgere gli altri. Sembrava che fosse in un luogo diverso, nonostante la presenza di Nerus accanto di lei. Per la prima volta da quando era notturna si sentì sola. Procedette verso la pietra quadrata e il vecchio mago la fece segno di salirvi sopra. Lei obbedì e lo guardò allontanarsi di qualche passo, come a lasciarne il centro della scena. Le sorrise, ma solo con la bocca. Gli occhi tradivano una preoccupazione e una tensione che non riusciva a dissimulare. Era probabile che si sentisse impotente. Cosa doveva fare adesso? Perché Linneros non le parlava? Si guardò attorno, ma non vide nulla. Si concentrò su se stessa. La superficie della pietra era fredda e le dava i brividi. Sentiva un groviglio di serpi che le si agitava nel ventre. Un refolo di vento le sfiorò la pelle e le parve la carezza gelida di un fantasma, il terrore d'essere all'improvviso. La scarsa luce grigiastra scomparve come se dal cielo fosse calata una fitta cortina di tenebra. La figura di Linneros venne inghiottita dall'oscurità e Diana si sentì isolata dal resto del mondo. Il refolo crebbe di intensità e cominciò a roteare attorno a lei come uno stretto turbine che le scomporse i capelli corvini e la vesti. Allargò la braccia per mantenere il precario equilibrio sulla pietra. Il vortice crebbe e Diana sentì perdere il contatto con il basamento di roccia, l'unico che le rimaneva con la realtà. Venne sollevata verso il cuore dell'enorme turbolenza che si stava scatenando. Giunta all'altezza dei vertici delle gigantesche rocce che formavano il cerchio di pietra, si fermò all'improvviso. L'ululato del vento crebbe fino a farle vibrare le ossa, ma, quando la testa le si stava per spaccare in due dal dolore come un melone maturo, tutto divenne immobile e silenzioso. Poi il cielo esplose. Il cielo che sovrastava il cerchio di pietra cominciò a ribollire come un'enorme superficie di lava plumbea. Il silenzio venne lentamente coperto da un crescendo di lamenti e gemiti. Diana rimaneva sospesa a mezz'aria, incapace di muoversi, di serrare gli occhi e di tapparsi le orecchie come avrebbe desiderato. Invece le palpebre rifiutavano di calare, costringendo ad osservare a occhi sbarrati le sagome indistinte che si contorcevano attorno a lei. I gemiti crebbero ancora di forza, divenendo urla stridule e urlate di dolore e rabbia. Il fremito dell'aria sembrava ora un groviglio di forme incorporee che si attorcigliavano come un verminaio. Più roteavano e si agitavano, più aumentavano di numero e meglio si sentiva. Non ci volle molto per capire che le immonde forme che la circondavano avevano la stessa natura di quello che le aveva infestato il ventre così a lungo. Anzi, in lei stava crescendo la convinzione, la certezza, che quegli ectoplasmi informi e orrendi che stavano salmodiando il loro oscuro canto di morte e distruzione provenissero davvero da dentro di lei. Per questo finalmente stava bene. Aveva partorito il male che aveva covato fino a farlo maturare e ora stava osservando la sua immonda progenie. Le forme si appressarono fin quasi a toccarla e il suono del loro lamentoso cantare fu l'unica cosa di cui lei fu cosciente. «Accettaci!» sembravano urlarle. «Noi siamo te!» Ma la sua mente si rifiutava di prestare fede a quel sillogismo. Anche se il male aveva albergato in lei così a lungo, se aveva fatto del suo corpo la sua culla nella quale crescere, non l'aveva trasformata. Sarebbe morta piuttosto che accettarlo. Morire. Perché no? Il pensiero le occupò la mente all'improvviso. Perché non accettare la scorciatoia più semplice verso la fine del dolore, dell'orrore, di tutto? Un pallido sorriso le increspò appena le labbra. Già sentiva il proprio corpo allontanarsi e lo sceno canto acquietarsi, quando dal groviglio indistinto che continuava a rotearla attorno si fece larga a fatica una forma altrettanto sfocata, ma immobile. Irradiava un qualche tipo di energia, mentre tutte le altre le succhiavano via ogni forza. «Diana!» la chiamò una voce femminile, che le sembrava familiare, pur essendo la prima volta che la sentiva. «Diana, non lasciarti andare!» A fianco della sagoma ne apparve un'altra, poi un'altra ancora. Avevano tratti femminili appena accennati, come se fossero stati plasmati nel fumo. Sembravano scrutarla con apprensione e amore. L'energia che irradiavano parve crescere di intensità, fino ad isolarla dall'orrore che la circondava. Capì chi erano, i simulacri. «Madre che mi avete preceduto», disse, con le parve di Dio, «aiutatemi a sfuggire l'orrore, donatemi la pace in un modo o nell'altro. Non devi fuggire da ciò che ti spaventa, specie se è parte di te», le disse una voce dolce, la voce di sua madre ossidiana, così come se l'era sempre immaginata. «Il potere oscuro è ormai parte di questo mondo, che tu lo voglia o no. Ognuno che nasce su notturni andreca un po' dentro di sé, ma solo una nera ha la possibilità di dominarlo e il dovere di farlo». All'improvviso sentì una pressione dall'esterno. Era come se il groviglio in forma di ectoplasmi che la circondavano si stesse stringendo attorno a lei, togliendole il respiro, privandola della lucidità necessaria per compiere una scelta così importante. «Non posso accettare un potere così malvagio. Mi corromperà fino a che non sarà possibile distinguerci», urlò Diana con tutte le sue forze. La stretta aumentò e lei si trovò ad ansimare. L'immagine dei simulacri si fece sfocata, le loro voci più lontane. Le stavano forse dicendo qualcosa? Si sforzò ad ascoltarle. «Ogni potere può essere usato in modo malvagio». La voce dolce era giunta ai limiti dell'ubbidibilità. «Il potere oscuro induce chi lo usa a perseguire il male, ma le nere hanno saputo resistere a questo richiamo e hanno portato un po' di pace e di giustizia dominando il dono crudele che era stato fatto loro». «Cosa dovrei fare?» chiese Diana singhiozzando. Il canto salmodiato degli esseri informi che le vorticavano attorno era ora fortissimo e le feriva le orecchie. Le voci si sovrapponevano, alcune molto simili a quelle che le stava parlando. Colse un'ultima frase che non era affatto sicura di chi l'avesse realmente pronunciato. «Rifiuta il potere oscuro e forse salverai la tua anima. Accettalo e forse salverai i notturni». Tom e Arla osservarono con timore e meraviglia il terribile spettacolo che si presentava di fronte a loro. Eliel, sdraiata ai loro piedi, si contorceva dal dolore con gli occhi sgranati. Un muto urlo gli distruggeva i tratti del viso. Lo sguardo di tutti era fisso su Diana, sospesa in aria appena oltre l'altezza delle gigantesche colonne. Aveva le braccia alzate e un'esplosione di energia scuoteva il cielo tinto di cremisi cupo. La ragazza levitava avvolta in una luminosità di fiamma e circondata da fulmini che crepitavano, schioccavano e si richiudevano ad arco su se stessi. Le figure amorfe che si arrotolavano orride intorno a lei, le ombre nausabonde che si addensavano nelle pieghe carminio della volta celeste, lentamente cominciarono a recedere. Impallidirono fino a divenire tenui riflessi, immagini trasparenti, ombre di ombre. Infine scomparvero, ritirandosi nei loro anfratti oscuri, nelle loro tane da incubo. Avvolta dalle tenebre che si erano ricomposte dopo essere state lacerate e violate nell'intimo, Diana scese lenta verso la pietra squadrata, scomparendo ai loro occhi. Il silenzio li avvolse, pesando creve su di loro. Quello che avevano visto li aveva spaventati, anche se in fondo non era diverso da ciò che si attendevano. Il potere oscuro era fuoriuscito da Diana come ospite indesiderato, ma ne era rientrato con la prepotenza del padrone di casa. Attesero senza pronunciare una parola e senza trovare il coraggio di guardarsi negli occhi. L'intera notturna sembrava essersi fermata, in attesa di un evento che non avveniva da secoli. Sentirono sassi scricchiolari e cauti passi avanzare verso di loro. Il viso stanco di Linerus apparve davanti a loro, con un'espressione indecifrabile dipinta sul volto. Poi apparve Diana. Si accorse subito che era cambiato. Non sembrava più una ragazza impaurita ed esile, ma quasi una donna. La ciocca di capelli bianchi con la neve che le era apparsa sul lato della chioma probina le conferiva maturità, ma era il suo sguardo che più testimoniava il cambiamento. C'era qualcosa di inquietante dietro quegli occhi neri come la notte, un tormento e una dolorosa consapevolezza come non avevano mai visto in nessun altro, ma anche potere, un potere che si estendeva ben oltre la loro percezione e che echeggiava ogni suo movimento. Eliel si inginocchiò ai suoi piedi, chinando il capo. «Ti saluto, principessa delle tenebre», mormorò con deferenza. Una nuova nera camminava su notturni. Fine del romanzo. La saga di Notturnia continua con il romanzo La principessa delle tenebre.